Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, ben ritrovati a questo nostro appuntamento mensile attorno al Vangelo di Marco. Chiedo allo Spirito Santo di illuminare questa ora e mezza che trascorreremo insieme perché ci aiuti a scavare dietro le righe di questo prezioso Vangelo. E perché quanto dirò io e le domande che voi mi porrete servano all'unico scopo di questa nostra trasmissione, quella di restituire alla parola di Dio la vitalità di cui è piena e soprattutto mettere in dialogo la parola con la nostra vita, perché non si fermi l'accoglienza a un'accoglienza puramente razionale, ma entri nel cuore, plasmi la nostra esistenza. Chiedo a quanti sono in ascolto e vivono il mistero del dolore, soprattutto ai più giovani che si trovano magari esposti a un momento di sofferenza o di malattia particolare, di unirsi a me nell'invocare da Dio la forza, la luce, l'efficacia che solo lo Spirito Santo sa donare. Nel nostro percorso sul Vangelo di Marco siamo arrivati al capitolo 10. La pagina su cui ci soffermeremo questa sera è la pagina compresa dal versetto 17 in poi, una pagina che è caratterizzata da un incontro molto significativo ed è l'incontro con l'uomo ricco. Da un punto di vista di cornice narrativa o letteraria possiamo dire che siamo nel momento in cui Gesù sta scendendo dalla Galilea a Gerusalemme. Voi sapete che diversamente dal Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Marco la narrazione è concepita come un unico grande viaggio che dal nord, dopo che Gesù ha percorso le regioni della Galilea e le regioni al di là del lago di Tiberiade, unendo il mondo giudaico al mondo pagano, ecco che c'è questo unico grande cammino che si snoda tra il nord e il sud, tra la Galilea delle genti e la città santa per eccellenza Gerusalemme, e questo cammino è un po' come incorniciato da due incontri. Il primo incontro è quello su cui ci soffermeremo stasera e avviene in Galilea, l'incontro con l'uomo ricco, e il secondo incontro viene proprio alle soglie della città di Gerusalemme, prima di entrare nella città di Gerusalemme, ed è l'incontro con un uomo povero, un cieco, Bartimeo, che si trova ai bordi della strada. Quindi un ricco e un povero sono posti come cornici, un uomo che non ha nome, quello di oggi, un cieco che ha un nome ben preciso, Bartimeo, sarà quello che vedremo, incontreremo alla fine del percorso in un'altra delle nostre trasmissioni. Chiedo a quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere come al solito un'edizione della Bibbia o del Vangelo di Marco e di aprirlo al capitolo 10 in modo da seguire insieme con me il testo. Cominciamo a leggere i versetti che narrano di questo incontro. Mentre Gesù si metteva in cammino, un tale, accorrendo, si gettò in ginocchio davanti a lui e gli domandò: «Maestro buono, che cosa posso fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non uno solo, Dio. Conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non compiere illeciti, onora tuo padre e tua madre». Ma quelli gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Gesù allora, fissando lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una sola cosa ti manca. Va, le cose che possiedi vendile e dalle ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Adombratosi per questa parola, egli se ne andò rattristato. Era infatti uno che aveva molte proprietà. Bene, questo incontro che apre il percorso verso la città di Gerusalemme lo possiamo suddividere in tre momenti. Il momento dell'impatto tra il tale e Gesù lungo questo cammino, il momento della ripresa di Gesù con lo sguardo carico di amore che suscita, chiede una risposta e trasforma il desiderio di questa persona in una vocazione vera e propria, e l'ultimo momento, il momento in cui questa persona se ne va adombrata e triste. Ecco, ad ognuno di questi momenti vorrei dedicare una parte della nostra riflessione. Cominciamo dal primo momento, il momento dell'incontro. Teniamo presente che, come dice un grande esperto di questa pagina marciana, il professor Vittorio Fusco, già defunto, ma che ha fatto una tesi stupenda e un lavoro stupendo su questi versetti di Marco, commentandoli, appunto, lui faceva notare che siamo di fronte a una di quelle pagine che nella storia della Chiesa hanno lasciato un solco profondo. E scriveva: l'episodio del giovane Antonio che, ascoltandola nella liturgia, convinto che fosse stata scritta per lui, si sentì spinto a metterla in pratica immediatamente. O quello di Francesco d'Assisi con i suoi compagni che, trovandolo in essa la risposta ai loro interrogativi, sono soltanto alcuni esempi fra tanti. Siamo di fronte quindi non solo a una pagina scritta, a qualche versetto del Vangelo di Marco, ma siamo di fronte a una pagina vissuta che ha generato all'interno della Chiesa delle vere e proprie conversioni. Vittorio Fusco, appunto, menzionava, e come abbiamo ascoltato, quello del giovane Antonio, che è il capofila di tutta la vita consacrata, e San Francesco, che è il capofila della grande riforma, se volete, della vita consacrata. Ma al di là di questi due modelli, che sono legati a uno stato di vita particolare, quello della vita religiosa, questo incontro tra Gesù e la persona ricca praticamente è un incontro che va bene per ogni cristiano, per ogni credente, e che pone al centro la questione del discepolato. In che modo noi possiamo definirci discepoli di Gesù? Non a caso questo incontro viene proprio nel momento in cui Gesù lascia la Galilea e si dirige a Gerusalemme, cioè il discepolato diventa autentico nel momento in cui l'uomo è posto di fronte alle esigenze, alle difficoltà di un cammino che punta verso Gerusalemme, che noi sappiamo è il cammino della croce, è il cammino del mistero pasquale, della sofferenza. Ecco perché all'inizio di questa trasmissione chiedevo soprattutto ai fratelli, alle sorelle che vivono una pagina di malattia di unirsi a me. Perché, vedete, solo chi ha vissuto l'esperienza in prima persona della sofferenza può capire cosa c'è dietro questa pagina. Gli altri possono magari arrivarci con la mente, con l'intenzione, con la ragione, ma chi vive sulla propria pelle il dramma, e soprattutto chi magari è più giovane, che vede tutta la vita davanti e che si sente provato dalla sofferenza, può mettersi nei panni di questa persona che interrompe Gesù nel suo cammino. Interessante il modo, vi dicevo, in cui questa persona si propone a Gesù. Notate, l'Evangelista Marco sottolinea la sua corsa, un tale accorrendo, quindi è uno slancio carico di entusiasmo. Non vuole perdere l'occasione di parlare con Gesù. Si getta in ginocchio davanti a lui, interrompendo il suo cammino, lo blocca, perché quando uno si getta davanti in ginocchio a una persona che sta camminando, quella persona è obbligata a fermarsi. E poi lo definisce, lo chiama, si rivolge a lui chiamandolo maestro buono. Sono tutti elementi che ci dicono il punto di partenza di questa persona. È una persona che ha una grande fiducia in Gesù. Quindi ci sono tutti gli atteggiamenti migliori per parlare di discepolato nel suo caso. E anche la domanda che gli fa è una domanda molto personale, perché gli chiede che cosa posso fare per avere in eredità la vita eterna. Non la mette in forma, non pone questa domanda in forma astratta, non dice che cosa si può fare per avere la vita eterna, no? Dice cosa io posso fare, utilizza la prima persona singolare, il che ci dice che questa persona è totalmente coinvolta in quello che chiede a Gesù, in quello per cui interpella Gesù. Il problema è che punta tutto sul fare. La domanda, l'approccio che ha a Gesù punta tutto su quello che lui, la persona in questione, può fare. E non a caso Gesù corregge questa prospettiva. E alla domanda che gli fa, sposta subito l'accento. Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non uno solo, Dio. Con questa domanda l'obiettivo di Gesù è quello di spostare l'attenzione dell'uomo che lo ha fermato, quello di decentrare la sua attenzione, per cui dall'attenzione su di sé e sui suoi sforzi, sulla sua capacità di fare, Gesù pone l'attenzione a colui che solo è buono, Dio. Questo decentramento operato da Gesù invita, in altre parole, quell'uomo a sostare sull'amore di Dio. Ci sono alcune vocazioni, ci sono alcuni passaggi della nostra vita in cui è possibile rimanere fedeli al discepolato solo se si comprende a fondo la bontà e l'amore di Dio. Senza questa esperienza si crolla. Senza questa esperienza nessuno sforzo, nessun desiderio di buona volontà, nessuna capacità umana può reggere. E teniamo presente il cammino di Gesù verso Gerusalemme. Gesù sta parlando in modo indiretto del mistero della passione e morte che lo attende a Gerusalemme, oltre ovviamente alla risurrezione. Non è possibile reggere a queste pagine di vita senza avere un'esperienza della bontà e dell'amore di Dio. E su questo elemento punterà poi tutto l'incontro con questa persona. Notiamo anche che Gesù non si limita solo a decentrare l'uomo che lo blocca ponendo l'attenzione su Dio, ma lo richiama anche i comandamenti e gli dice: conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non compiere illeciti, onora tuo padre e tua madre. Quello che è curioso in questo elenco operato da Gesù e sul quale gli studiosi si interrogano è il fatto che Gesù sembra non conoscere, nel momento in cui si rivolge all'uomo, sembra non conoscere l'elenco dei 10 comandamenti, perché dei 10 comandamenti salta i primi 3 e menziona tutti gli altri, tra l'altro li menziona in ordine, mettendo alla fine il 4. In altre parole, Gesù sottolinea tutti i comandamenti che hanno a che fare con il rapporto con il prossimo e che hanno a che fare con il rapporto con i genitori. Per cui tutti questi comandamenti sono importanti, ma paradossalmente salta i primi 3, quelli che mettono a fuoco la relazione tra l'uomo e Dio. Capiremo subito perché Gesù salta proprio questi 3 comandamenti, perché è su questo punto che la persona che lo ha bloccato deve maturare, deve crescere. E per rispondere in modo adeguato ai primi 3 comandamenti, cioè per rispondere con una forma totalizzante a quello che è l'amore di Dio, è necessario da parte dell'uomo capire questo amore di Dio, ma non con la testa, con il cuore, sperimentare questo amore di Dio che si poserà su di lui attraverso lo sguardo. Quindi la prima tappa di questo incontro, se volessimo fare una sintesi, è una tappa che cerca di decentrare l'uomo dall'attenzione a sé e alle sue capacità, ai suoi sforzi, a Dio. Dall'io a Dio, dal proprio sforzo alla risposta ad un amore che ci precede, dal fare all'essere, dal guadagnare al ricevere, accogliere un dono. Sono, se vogliamo, delle rivoluzioni nel rapporto tra l'uomo e Dio, rivoluzioni su cui si gioca l'esperienza del discepolato cristiano di ieri e di oggi. La nostra spiritualità si gioca costantemente su questi aspetti, perché ogni giorno noi abbiamo bisogno di decentrarci dall'io a Dio, di passare da una visione del discepolato cristiano che punta sullo sforzo e sulle capacità personali a una percezione che è dono, che deve puntare sull'autenticità della persona, sull'essere, ad una visione che punta sul guadagnare la vita eterna, a quella che è l'esperienza della vita eterna, che è l'esperienza della vita in Cristo qui ed ora. Ecco, prima di procedere oltre lasciamo ora un breve stacco musicale in modo da aiutarci a interiorizzare quanto ci siamo detti in questi primi versetti, in modo poi da continuare con il secondo momento che caratterizza questo incontro e che mette un po' la persona che ha affermato Gesù con le spalle al muro. Quindi un breve stacco musicale e riprenderemo subito dopo. Dopo la prima parte dell'incontro, Gesù riprende la parola e il testo ci dice che la persona che lo aveva incontrato di fronte al richiamo ai comandamenti gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Gesù allora, fissando lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una sola cosa ti manca. Va, le cose che possiedi vendile e dalle ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Ecco, qui c'è un passo in avanti rispetto al primo momento dell'incontro, perché se nel primo momento dell'incontro quello del giovane è uno slancio personale, una ricerca personale, in questo secondo momento la sua ricerca personale si trasforma in vera e propria vocazione, in una chiamata che viene da Dio. Ma notate da che cosa è preceduta questa chiamata. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, lo amò. E questa chiamata è accompagnata, preceduta, potremmo dire, da due verbi. Il verbo del posarsi dello sguardo di Gesù, ed è un verbo molto particolare in greco, è il verbo emblepo, che significa guardare dentro la persona. Quindi Gesù guarda nell'intimo la persona che gli sta di fronte. lo osserva in tutte le sue caratteristiche, non lo vede solo nello slancio e nell'entusiasmo che lui manifesta in quel momento, ma lo coglie nelle sue debolezze, nella sua generosità, nei suoi punti di debolezza e nei suoi punti di forza. E tutto questo è abbracciato dall'amore di Dio, lo amò, il secondo grande verbo, agapao. Solo nel momento in cui uno si sente avvolto da questo duplice mistero, quello di un Dio che posa lo sguardo su di lui e quello di un Dio che lo ama, solo un cuore di questo che fa questa duplice esperienza è in grado di accogliere la vocazione che gli viene data. Gesù quindi gli disse: una sola cosa ti manca, va alle cose che possiedi, vendile, dalle ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ecco, prima di commentare la richiesta che Gesù fa a lui, vorrei fermarmi ancora su questa duplicità di ciò che prepara la risposta dell'uomo, cioè il fissare lo sguardo e il coinvolgimento della persona nel cuore di Dio. Quello che è significativo è che quando noi andiamo a guardare nelle pagine della Scrittura la promessa che Dio fa al suo popolo, in genere la promessa del rinnovamento dell'alleanza è sempre accompagnata, o è spesso accompagnata, da questi due elementi: dal posarsi dello sguardo di Dio sul suo popolo e dal coinvolgimento del cuore, quindi dall'elemento dell'amore di Dio, dall'esperienza dell'amore di Dio. Cito a titolo di esempio un passaggio che troviamo nel libro del profeta Geremia, esattamente al capitolo 24, quando il profeta si rivolge a Geremia parlando del popolo che si trova in esilio, che ha perso quindi la terra, il tempio, il re e che è stato cacciato lontano, un popolo che si sente allontanato, maledetto. Bene, Dio si rivolge al profeta dicendo: tu devi dire a questo popolo che non è maledetto da me, ma è questo il momento in cui deve sentire che il mio sguardo si posa su di lui, che io li amo. E tutto questo permetterà loro di ricostruire la loro storia, di ripartire da zero, di rivivere l'esperienza dell'alleanza. Leggo alcuni versetti di questo capitolo. Il capitolo 24, tra l'altro, è molto bello perché racconta una parabola, racconta la parabola dei due cesti di fichi, ma al di là di questo non mi soffermo su questa immagine e vado subito sulla promessa che viene fatta al popolo esiliato. Lui dice: così io tratterò i deportati di Giuda che ho mandato da questo luogo nel paese dei Caldei, cioè nel paese dell'esilio. Sentite, poserò lo sguardo su di loro per il loro bene, li ricondurrò in questo paese, li riedificherò e non li abbatterò, li pianterò e non li sradicherò mai, darò loro un cuore per conoscermi, perché io sono il Signore, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, se torneranno a me con tutto il cuore. Notate, il rinnovamento dell'alleanza che è sancito in quella formula, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, è legato a due elementi, a due promesse: poserò lo sguardo su di loro e darò loro un cuore capace di conoscermi, un cuore che fa esperienza del mio amore. Quindi vedete come fin dall'Antico Testamento queste sono le due vie attraverso le quali una persona può essere in grado di dire sì al Signore anche nelle pagine più difficili, più delicate della sua vita. E sono proprio queste: sentire che lo sguardo del Signore non lo abbandona, ma anzi penetra la sua persona in tutte le sue fibre, quelle più luminose e quelle più oscure. E il secondo aspetto è l'esperienza, conoscere con il cuore Dio, non solo con la mente. Darò loro un cuore in grado di conoscermi. È questa la duplice esperienza che Gesù vuole far fare all'uomo che ha interrotto il suo cammino. Ed è su questa base che trasforma quell'incontro in una chiamata vera e propria, quando gli dice: una sola cosa ti manca, va, le cose che possiedi vendile e dalle ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Notiamo il modo in cui viene composta questa frase, in cui viene manifestata l'esigenza. Gesù chiede a questa persona di vendere le cose che ha, ma se si fermasse qui la cosa sarebbe abbastanza facile da fare, cioè una persona che ha tante proprietà potrebbe prendere queste proprietà e venderle a un amico. Quando uno le vende a un amico, magari un giorno ci ripensa, torna indietro e quell'amico gli dà ancora qualcosa. E invece Gesù non dice così, non dice va e vendile, ma aggiunge va, vendile e dalle ai poveri. Non gli dice va, vendile e dalle a un povero, perché un povero può sempre essere rintracciato, si può riavere quello che gli è stato dato magari, ma dice ai poveri, e i poveri sono sempre stati molti nella storia. Consegnare qualcosa ai poveri, al plurale, significa non averlo mai più, significa non avere più nessuna garanzia. E questo assicura al giovane quello che il giovane cercava, avere un tesoro in cielo, eredità per la vita eterna. Però anche qua Gesù non si ferma a questo. L'obiettivo di una vita non è avere un tesoro in cielo, l'obiettivo della vita è un altro. Non deve quest'uomo vendere le sue cose solo per servire i poveri. Questa è una cosa importante, ma non è la principale. La cosa più importante è, vieni subito dopo, vieni e seguimi. In altre parole, quello che manca a questa persona che ha interrotto Gesù e che sente dentro di sé ancora un vuoto, è la sequela piena e libera. E Gesù fa capire a questa persona che una sequela piena e libera è possibile solo nel momento in cui si percepisce lo sguardo d'amore di Dio. E qui torno a ribadire quello che ci siamo detti all'inizio. È vero che questo brano ha illuminato molte pagine della storia della vita consacrata, ma questo brano vale per tutti i credenti. Questa persona che incontra Gesù non era né frate né suora, era un laico. E questo invito che Gesù fa a lui lo fa a tutti noi, ognuno di noi, per rispondere alla vocazione che ha ricevuta nei diversi stati di vita, sposati, religiosi e tutte le altre vocazioni che ci possono essere, per rispondere in pienezza al proprio stato di vita, alla vocazione che ha ricevuta da Dio, deve sperimentare lo sguardo d'amore di Dio, altrimenti la vita si riduce a una sequenza di ore, a una sequenza di minuti, a una sequenza di compiti, di cose da fare, che alla fine rischiano di frustrare la persona, di non dargli quel senso di pienezza che viene solo da Dio. Di fronte a tutto questo ci viene detto il terzo momento di questo brano, che è un po' la reazione di quest'uomo. Versetto 22 ci viene detto che adombratosi per questa parola, egli se ne andò rattristato. Era infatti uno che aveva molte proprietà. Notate, c'è una duplice reazione. La prima reazione è quello del volto che cambia espressione. All'entusiasmo viene subito sostituito un velo di oscurità. Il verbo greco che viene utilizzato, stygnazo, deriva da un aggettivo, stygnos, che significa scuro, nero. È come, cioè l'autore sacro vuole proprio descrivere l'adombrarsi, l'oscurarsi del volto. Alcuni traducono con corrucciata la fronte, proprio per cercare di rendere il cambiamento fisionomico di questa persona di fronte all'esigenza che gli viene posta davanti. E subito dopo la seconda reazione è la tristezza. E anche qua il verbo che viene utilizzato è il verbo luteo, che in greco indica una tristezza che provoca angoscia, che provoca dolore. E nel Vangelo di Marco questo verbo verrà utilizzato solo due volte, in questo brano e poi sapete quando? Nel momento della passione. quando Gesù dirà ai suoi che l'ora è giunta e Gesù sarà non solo umiliato, ma arrestato e messo a morte. In quel momento tutti si rattristano, perché Gesù annuncia loro che tutti fuggiranno, e allora tutti si rattristano, e viene utilizzato questo stesso verbo. Ora, normalmente coloro che commentano questa pagina si soffermano su questa duplice reazione dell'uomo leggendola in chiave negativa, cioè dicendo, bene, quest'uomo non è stato in grado di mettersi in gioco e se n'è andato triste e adombrato. Io però inviterei a fare un passo un pochino in avanti, cioè l'adombrarsi e il rattristarsi non sono per forza delle reazioni negative, potrebbero essere delle reazioni positive. Cioè, se la persona se ne fosse andata via mandando Gesù a quel paese, capirei, ma il fatto che la persona si adombra e si rattriste vuol dire che quella persona ha capito ciò che Gesù gli stava chiedendo. In altre parole, si è sentita portata da Gesù alla radice del proprio senso di incompiutezza e posto di fronte a quella incapacità di dire un sì totale, si è per il momento adombrato e rattristato. Quell'incontro non l'ha lasciato indifferente. Un giorno, forse, quell'adombrarsi e quella tristezza, lavorando dentro di lui, lo renderanno capace di dire il suo sì. In altre parole, questa persona, che Matteo identifica con un giovane, ma Marco non lo identifica con un giovane, lo identifica con un tale, questo tale è l'emblema, l'icona che all'inizio del cammino che conduce Gesù dalla Galilea a Gerusalemme viene posta di fronte ai discepoli. Tutti i discepoli vivranno la stessa esperienza. Nel momento di dire il sì in pienezza al loro maestro, cioè alle soglie della passione, tutti vivranno la stessa esperienza di adombrarsi e di rattristarsi. Ma quella non sarà il momento del loro fallimento finale. Quella adombrarsi, quella tristezza lavorerà dentro di loro e li renderà lentamente capaci di sperimentare lo sguardo d'amore di Gesù che si manifesterà in pienezza nel dono della croce. Solo dopo aver vissuto quell'esperienza la tristezza si trasformerà in gioia e l'adombrarsi si trasformerà in un'esplosione di luce che assumerà il volto dell'annuncio della risurrezione. Questo vale per tutti noi. Gesù non chiede a nessuno dei suoi discepoli, nemmeno a noi, di abbracciare cantando le croci che ci sono date ogni giorno. Anche noi passiamo attraverso l'esperienza del rattristarsi e l'esperienza dell'adombrarsi. L'importante però è lasciare che in questi momenti la parola di Dio possa abitare i nostri cuori. Perché finché la parola di Dio abita nei nostri cuori, l'esperienza della tristezza e l'esperienza dell'adombrarsi lavorano dentro di noi e ci permettono ad agio di rispondere in modo autentico a quella che è la chiamata di Gesù. Ecco, cari ascoltatori, lasciamo un secondo momento, un secondo stacco musicale, prima di continuare nel nostro commento ascoltando quello che è la reazione dei discepoli di fronte a tutto questo, poi lascerò la parola alle vostre domande. Quindi ancora uno stacco musicale per interiorizzare quanto ci siamo detti su quest'uomo, prima di continuare con i versetti 23-27 per vedere anche come i discepoli reagiscono di fronte a questo incontro a cui hanno assistito, partecipato, vedendo prima l'entusiasmo del tale che si è avvicinato da Gesù e poi la tristezza con cui questi se n'è andato. Dopo questo incontro, l'Evangelista Marco si sofferma sulla reazione dei discepoli e il testo continua così. Guardandosi attorno, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che possiedono ricchezze entreranno nel regno di Dio». I discepoli rimasero sbigottiti delle sue parole. Ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: «Figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Quelli ancora più scossi dicevano tra loro: «Chi si potrà salvare?». Fissando lo sguardo su di loro, Gesù disse: «Tra gli uomini non è possibile, ma non presso Dio. Tutto, infatti, è possibile presso Dio». Molto bello questo secondo momento in cui Gesù si rivolge direttamente ai discepoli in un gioco continuo di sguardi. Questo brano va letto proprio in sintonia con l'incontro con l'uomo ricco. Se notate, ha la stessa struttura, cioè come nell'incontro con l'uomo ricco ci sono tre riprese, lo stesso vale con i discepoli. Ci sono anche in questo incontro tre riprese, una dopo l'altra e sempre più esigente fino al momento in cui tutto si scioglie, in cui il nodo viene svelato, in cui il nodo si scioglie. La prima cosa da dire riguardo a questo secondo brano è il tema delle ricchezze. Gesù ovviamente qua punta il dito sulla questione del rapporto tra l'uomo e i suoi beni, tra l'uomo e le sue ricchezze, però bisogna stare attenti, dare un'interpretazione solo unilaterale a questo brano. Teniamo presente che nella scrittura il tema delle ricchezze è sempre affrontato in tre prospettive diverse, che corrispondono, se volete, anche alle tre grandi parti dell'Antico Testamento. Questo si riflette anche nell'insegnamento di Gesù. La prima parte dell'Antico Testamento, in genere il Pentateuco, in genere presenta le ricchezze come il segno di una benedizione da Dio. La prosperità è il segno di una benedizione, di un dono che viene dal cielo a coloro che gli sono fedeli. Nella tradizione profetica la trattazione delle ricchezze cambia un pochino direzione e allora le ricchezze vengono menzionate nella polemica profetica per la giustizia del popolo, cioè la ricchezza è spesso luogo in cui si commettono le più grandi ingiustizie, le più grandi differenze, per cui ci sono alcuni che vivono all'insegna dell'opulenza insensibili verso gli altri e altri che vivono nella miseria e che vengono abbandonati dai ricchi. Quindi i profeti vedono, rileggono questa categoria, questo tema, non solo dal punto di vista della benedizione di Dio, ma dal punto di vista della giustizia sociale. E poi c'è una terza prospettiva che è tipica del linguaggio sapienziale, dove il tema della ricchezza viene trattato negli ambiti delle messe in guardia da parte di Dio, cioè è un tema su cui la persona deve operare un discernimento, perché laddove c'è la ricchezza rischia di esserci la povertà, rischia di esserci l'egoismo, rischia di esserci l'ingiustizia. Quindi la tradizione sapienziale ne fa un motivo, un luogo in cui chiedere il massimo discernimento a Dio. Ecco, in questa triplice ottica, quella della benedizione di Dio, quella della giustizia sociale, quello del luogo del discernimento, in questa triplice ottica si pone anche l'insegnamento di Gesù. Quindi non è un insegnamento unilaterale che vede solo da un punto di vista negativo la ricchezza. In questo caso invita i suoi discepoli a fare attenzione, perché il rischio di coloro che hanno molti beni, molte proprietà, è proprio quello di non entrare nel regno dei cieli, perché sono troppo sovraccarichi di tutto quello che hanno. Notiamo una progressione. Prima Gesù dice quanto difficilmente entreranno nel regno dei cieli, poi aggiunge, usa un'immagine forte che è quella del cammello che passa per la cruna del lago, dopodiché sottolinea l'impossibilità che non è impossibile a Dio. Quindi c'è come una gradazione a cui corrisponde una gradazione della sorpresa dei discepoli. Nel primo momento sono sorpresi, nel secondo momento sono scossi e parlottano tra loro, curioso. Questi discepoli, quando c'è qualcosa che non va, non lo dicono espressamente a Gesù, quasi mai, parlocchiano tra di loro, si confrontano tra di loro, finché Gesù li smaschera. Quindi c'è una progressione. Merita attenzione l'esempio, la parabola che viene utilizzata, quella del cammello che passa per la cruna del lago. Qui gli studiosi si sono, fin dai secoli più antichi, confrontati per capire questa immagine di Gesù. Sapete che fin dai primi secoli gli scrivani, quando arrivavano a questo versetto, alcuni hanno cominciato a correggere il testo, correggendo il termine greco camelos in camilos, cioè fune. Quindi il lettore si trovava di fronte a una frase che non era più: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, ma è più facile che una fune passi per la cruna di un ago, rompendo il paradosso voluto da Marco nella sua descrizione. Altri invece, come Teofilatto nel X secolo, commentando questo episodio, dice che la frase faceva riferimento, secondo lui, a uno degli ingressi di Gerusalemme, una delle porte della città santa, che nella sua cinta muraria aveva appunto una porta che era più piccola delle altre e dove i cammelli riuscivano a entrare solo liberandosi dai carichi di cui in genere erano ricoperti. Sono due tentativi di interpretazione del brano che non tengono conto della voluta paradossalità dell'immagine utilizzata da Marco. In altre parole, Gesù con questa immagine ripete all'uomo quello che aveva detto al giovane ricco. Non è quello che noi facciamo, non è quello che noi abbiamo che ci permette di entrare nel regno, ma è la nostra libertà di fondo, la capacità di essere totalmente liberi e poveri davanti a Dio. E notate come anche in questo caso la scena si conclude con: fissando lo sguardo su di loro, Gesù disse. Ancora una volta tutto si conclude all'insegna di quel verbo che abbiamo visto con l'uomo ricco: fissando lo sguardo su di loro. Il verbo utilizzato è sempre lo stesso, è il verbo embleco, cioè è quel Gesù che entra con profondità attraverso il suo sguardo nella vita di tutti coloro che lo seguono. E nel momento in cui noi ci lasciamo in qualche modo abbracciare da questo sguardo in tutte le dimensioni della nostra persona, anche ciò che non è possibile diventa possibile, perché allora si capisce che protagonista della nostra esistenza non siamo noi da soli, ma siamo noi con Dio. E quando uno è con Dio, dirà Paolo nella lettera ai Romani, chi potrà essere contro di lui? Ecco, vedete quindi, cari ascoltatori, come questo brano, il brano che apre il cammino di Gesù verso Gerusalemme, sia di un alto valore pedagogico. Gesù insegna ai suoi discepoli il valore della sequela, il valore del secondo sì, se vogliamo chiamarlo così, nel momento in cui si sta incamminando verso il mistero della sua passione e della sua morte, sottolineando che d'ora in poi seguirlo non è solo questione di entusiasmo davanti ai suoi miracoli, di miracoli non ne farà più, non è più suscitato dallo stupore del suo insegnamento, perché il suo insegnamento comincia a tradursi in vita esigente. Ora tutto si gioca sulla capacità in cui uno riesce a porsi di fronte all'amore di Dio, un amore che spoglia e riveste, un amore che graffia ma rilancia, un amore che distrugge alcune dimensioni di noi per costruirne delle altre, un amore che chiama ciascuno a delle risposte radicali. Solo quando c'è questa accoglienza di una vocazione altra è possibile essere discepoli del Signore, e questo nessuno lo può fare da solo. Lasciamo ora un ultimo stacco musicale e invito voi ascoltatori ora a preparare le vostre domande, i vostri interrogativi. Come vi dico sempre, questa nostra trasmissione non si costruisce solo attorno a quello che dico io, ma anche a quelle che sono le perplessità, le domande, gli interrogativi, le riflessioni che possono nascere da voi. Vi chiedo di rimanere il più possibile aderenti al testo che questa sera abbiamo commentato e ad essere sintetici nelle vostre domande in modo da dare a tutti la possibilità di intervenire. Per ora, grazie del vostro ascolto. Ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria per le vostre domande a Don Giacomo Perego. La tua parola mi fa vivere percorsi di Lectio Continua. 031 610 610. pronto, buonasera. Buonasera padre, mi chiamo Silvio, buonasera. Sì. Mi dica Silvio. Senta padre, mi dica sulla base anche di tutto quello, giustamente ho seguito la sua catechesi, sull'atteggiamento da tenere anche per fare al meglio la volontà di Dio. Ora, io ho un problema, per farla breve è questo. Siccome frequentiamo io e mia moglie la stessa parrocchia dove insomma, andiamo a messa e tra l'altro abbiamo un buon rapporto anche con il sacerdote, però ultimamente sono infastidito io dal fatto che la mia moglie spesso si lascia prendere quando siamo a casa per delle banalità. S'arrabbia facilmente, mantiene poco il controllo e questo porta dissapore e mi viene dentro di me in uno stato d'animo e mi chiedo ma come si fa ad andare alla messa, a frequentare la chiesa, avere un atteggiamento di serenità in quelle circostanze. E quando si fa comunione con gli altri e poi allora ringrazio Silvio per questo suo intervento. Probabilmente le difficoltà anche nell'audio erano legate al fatto che il nostro ascoltatore era in viaggio e quindi ascoltava la nostra trasmissione mentre stava viaggiando. Ci pone una domanda interessante, significativa, che interpella tutti noi. Lui lo applica alla sua situazione quotidiana, quella del rapporto tra lui e sua moglie, ma è un'esperienza che viviamo tutti noi. Lui diceva: com'è possibile che una persona vive l'esperienza sacramentale della liturgia, della messa, E poi torna a casa ed è nervosa, e torna a casa e si arrabbia, torna a casa ed è intrattabile. Che senso ha vivere la liturgia in questo modo? Che senso ha andare in chiesa quando poi i frutti sono questi? È una domanda che ci interpella, perché effettivamente se noi ci facciamo un breve esame di coscienza, questo capita a tutti noi. Capita a tutti noi che celebriamo, ascoltiamo la parola di Dio, però facciamo fatica a trasformare questo incontro con Dio in una esperienza di vita. E allora in circostanze come queste non è che dobbiamo lasciar perdere l'elemento dove il Signore ci può parlare, che è l'elemento della celebrazione, l'ascolto della parola di Dio, ma interpellarci su come noi viviamo questo momento. E allora chiedere allo Spirito veramente di trasformare quel momento in un'occasione in cui veramente lo sguardo di Dio si posa su di noi. E allora nel caso di Silvio, la partecipazione all'Eucaristia per te, caro ascoltatore che ci hai chiamati, può essere quello di trovare il momento giusto per cercare di far emergere da tua moglie il motivo per cui si arrabbia, è arrabbiata, è nervosa. Magari c'è qualche problema che la turba dentro, magari ha bisogno di uno spazio maggiore di ascolto, di condivisione da parte tua, magari ha bisogno di una condivisione maggiore tra di voi, oppure magari c'è qualcosa nelle relazioni parrocchiali che la mettono a disagio, che le creano problema. Certo, il fatto già che tu ti poni la domanda su questo dice una cosa molto bella, dice che per te la fede e il discepolato, la risposta alla vita cristiana, è una cosa importante. Teniamo sempre presenti questo, cari ascoltatori. Il Signore nella nostra vita di preghiera non ci allontana mai da quella che è il nostro stato di vita, la nostra vocazione di fondo. se uno è chiamato alla vita matrimoniale, ogni nostro celebrare, ogni nostro incontro con il Signore è un incontro che punterà a rinnovare quella scelta di vita. Teniamo presente che il sacramento nel matrimonio è proprio la presenza di Dio tra l'uomo e la donna, è questo che trasforma l'unità tra i due in sacramento. Così un religioso, una religiosa, nel momento in cui celebra, è chiamato ad un sì gioioso alla sua vocazione. Se questo non avviene, vuol dire che quell'incontro è pura formalità, è un puro fare, e il Signore non se ne fa nulla del suo fare. Ieri nella liturgia ambrosiana c'era il Vangelo del fariseo e del pubblicano. E la diversità tra i due sta tutta qui. Il fariseo va davanti al Signore e gli porta il suo fare, al punto tale che quando termina la preghiera, Dio si china dal cielo e vede ai suoi piedi i digiuni, i sacrifici, le penitenze, ma non trova la persona che ha già voltato i tacchi e se n'è andato via. Invece, quando si china dal cielo per il pubblicano, Dio non trova niente, non trova digiuni, non trova penitenze, non trova sacrifici, ma trova un uomo con gli occhi abbassati che dice: abbi pietà di me, peccatore. Ecco la diversità. Ecco la diversità che trasforma l'incontro con Dio, la presenza al Tempio, da atto liturgico esteriore a liturgia della vita. E quando c'è liturgia della vita, questa non può non incidere sull'esistenza. Certo, ci saranno dei momenti che magari sono più faticosi, ma questi momenti servono per interpellarci, come si è interpellato il nostro ascoltatore. Quindi grazie Silvio per questa tua testimonianza che è di stimolo a ciascuno di noi. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Sono Angelo da Potenza. Pronto? Sì, sì, sono sì, Angelo l'attento. Da Potenza. Mi dica, chiamo da un cellulare e sono per strada, mi scuso per questo. Forse ci sarà un po' di disturbo, però volevo dire questo. Ho ascoltato parte della catechesi e lei citava l'esperienza di San Francesco di Credo di Antoni, padre del deserto, e in particolare in riferimento a questo Vangelo di Marco, probabilmente l'attaccamento ai beni, che è un ostacolo a seguire Gesù Cristo e a fare la sua volontà. Io volevo dire questo: molte volte di questo aspetto nella Chiesa non si parla con la dovuta attenzione, la dovuta sottolineatura, cioè l'aspetto dell'avarizia, che poi è un vizio capitale, diciamo. Sì, Angelo, grazie del tuo intervento. Anche in questo caso tu tocchi un elemento particolare del discepolato, no? Che è quello dei beni, del nostro rapporto con i beni. Ecco, per rispondere alla tua domanda e per affrontare quello che è il tema dell'avarizia, che effettivamente è uno dei grandi spiriti nemici con i quali l'uomo deve lottare, riprendo quanto dicevamo al termine, no, della nostra trattazione. Di fronte ai beni, alle proprietà, tra l'altro nel brano di Marco viene proprio utilizzato, Marco non usa di fronte per descrivere l'uomo che ha incontrato Gesù, non dice che quest'uomo aveva molte ricchezze, diceva che quest'uomo aveva molte proprietà. Cioè il termine greco utilizzato è proprio diverso, ci sono due sostantivi diversi. Ecco, perché sottolinea l'elemento delle proprietà? Perché le proprietà sono gli elementi di cui una persona può dire: questo è mio. Le proprietà sono la casa, i campi, nel primo secolo era anche la donna, gli schiavi, tutto era considerato proprietà, qualcosa che è mio. Ora, l'invito di Gesù di fronte a quest'uomo è quello di tornare nella sua posizione. La sua posizione, la posizione giusta dell'uomo è quella di non essere proprietario di nulla. L'unica cosa che conta nell'esistenza è il rapporto con Dio e il rapporto con l'altro, ma senza mai possedere né Dio né l'altro. il grande pericolo dell'avarizia, che l'avarizia istiga nella natura umana, è quello di darci l'illusione di possedere qualcosa. E quando noi abbiamo questa illusione siamo fregati in partenza, sia nella dimensione spirituale, guai a noi quando nel nostro rapporto con Dio si stilla la percezione che noi possediamo qualcosa di Lui. Ricordiamoci sempre, Dio è sempre un roveto di fronte al quale occorre togliersi i calzari, è sempre un mistero che ci supera. Di Lui riusciamo a conoscere qualcosa, cioè entrare in relazione con Lui, ma ogni giorno il suo mistero ci supera e ci invita ad andare oltre. E lo stesso vale nel rapporto con gli altri. Quando noi pensiamo di aver afferrato una persona, essere sicuri in tutti gli aspetti della relazione con Lui, è il momento in cui rischiamo maggiormente di non rispettarla. Anche l'altro è un roveto di fronte al quale occorre togliersi i calzari. Ecco allora che l'invito che veniva da questa pagina di Marco era quello di, non è uno sguardo negativo sulle ricchezze, sui beni che uno può avere, ma un invito alla vigilanza, per fare di questi momenti, di queste situazioni, queste condizioni di vita, uno spazio di discernimento e uno spazio di giustizia sociale, non di ingiustizia sociale, di equilibrio sociale. E penso che questo sia legato ad ogni forma di chiamata, ogni forma di vocazione, proprio come quella del tale che ha incontrato Gesù. Grazie Angelo per la tua telefonata. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Antonio, sto in auto. Volevo solamente, le auguro buona serata e chiamo da Napoli. Volevo soltanto riagganciarmi a quello che diceva il primo ascoltatore, cioè la coerenza di vita, in effetti. Io credo che la cosa purtroppo che oggi si riscontra frequentemente è proprio la mancanza di coerenza tra ciò in cui noi crediamo e ciò in cui noi professiamo, per cui il cristiano oggi purtroppo ha perso molte persone, molti di noi perdono di credibilità proprio perché ci manca fondamentalmente la coerenza in ciò che crediamo. Noi andiamo a messa la domenica, partecipiamo rito eucaristico, ma probabilmente molti di noi, ancorché si definiscano cristiani, in effetti lo facciamo, come diciamo qui a Napoli, all'acqua di rose. Grazie Antonio per il tuo intervento, che mi permette di riprendere quanto dicevamo già di fronte alla domanda di Silvio e di fare un accenno al modo in cui Gesù accosta, no, quest'uomo che lo blocca nel cammino. Se voi ci fate caso, il primo modo in cui Gesù si rivolge a lui non è quello di fare delle domande astratte, no, sulla sua vita, ma lo interpella sulle proprie parole. Il giovane, stando alla versione matteana, si rivolge a lui dicendo: maestro buono, che cosa posso fare per avere la vita eterna? E Gesù ribatte dicendo: perché mi chiami buono? In altre parole, Gesù lo fa entrare nel significato delle parole che sta usando nel dialogare con lui. Ecco, la coerenza a volte implica questo per ciascuno di noi: fermarsi e pensare al significato delle parole che noi diciamo, quando entriamo in rapporto con Dio. Se noi ci fermassimo a pensare anche solo al significato delle preghiere quotidiane che recitiamo, delle formule che come assemblea proclamiamo durante la celebrazione eucaristica, veramente il discepolato, sì, non può non tradursi in vita. Solo che a volte a tutte queste formule rispondiamo in modo molto svogliato. Quante volte dopo la proclamazione del Vangelo, l'ascolto del commento da parte del sacerdote, si parte subito con il credo che viene recitato osservando sbadigli a destra e a sinistra, cioè non ci si rende conto che quel rinnovare la professione della nostra fede è immergerci nel grande mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù, è ciò che ci distingue da tutti gli altri credenti, è diventata una formula che ognuno dice alla belle meglio, e invece no, il Signore vuole che entriamo nel significato delle parole che proclamiamo. Pensiamo anche solo al Padre nostro, soffermarci sul significato delle singole parole. Pensiamo alla recita dei salmi, ci sono parrocchie che hanno l'abitudine, oramai è diventata una consuetudine in molte parrocchie, no? Di recitare i salmi del vespro, delle lodi prima o all'interno della celebrazione eucaristica. È una cosa bella, sacrosanta, ma attenzione a non trasformare questo in una corsa ippica, dove prima si finisce il salmo meglio è, perché bisogna stare assolutamente nei 30 minuti. È un'aberrazione, rischia di essere un'aberrazione. I salmi vanno proclamati cercando di gustare le parole che vengono proclamate, sapendosi fermare alla fine del salmo per dare la risonanza almeno a un passaggio, a un versetto, a una parola, perché quella porzione di parola di Dio non ci scivoli via, non ci scivoli addosso. E in questo quanto dobbiamo crescere. Caro Antonio, è proprio vero, la coerenza comincia proprio da qui, da queste piccole cose, per poi tradursi in vita. Se vogliamo che la parola di Dio tocchi la nostra vita, è necessario dare a questa parola la giusta dignità, il giusto spazio, uno spazio che è fatto di tanto ascolto e di silenzio. Grazie del tuo intervento. Sì, pronto? Buonasera. Buonasera, mi dica, con chi parlo? Sì, sono Tommaso da Trepuzzi, provincia di Lecce. Sì. Senta, riflettendo sul brano del ricco che non segue Gesù, no? Riflettevo che giorni fa mi è capitato, sono rimasto a Roma, in mezzo alla strada con la macchina senza benzina, perché si era finita la benzina. E chiaramente ho chiesto per 3 ore a tanta gente, anche gente che usciva da una chiesa, se era possibile qualcosa, qualche euro per mettere la benzina, e nessuno mi ha aiutato. L'unico che mi ha soccorso è stato un lavavetri del Bangladesh che mi ha dato tutto quello che c'aveva, ossia 2 euro. E io grazie a quelle 2 euro ho potuto raggiungere la mia abitazione. Il giorno dopo sono ritornato da questo ragazzo e gli ho dato quello che c'avevo io, cioè 10 euro, 5 volte in più di quello che mi ha dato lui. Volevo sapere, posso paragonare quello che mi è capitato proprio all'evento del brano del ricco che non segue Gesù? Caro Tommaso, prima di tutto grazie per questa tua testimonianza, perché questi piccoli episodi ci aprono gli occhi su tante cose e quando noi riusciamo a fare una lettura non solo materiale dei fatti, ma anche una lettura spirituale delle cose, penso che i fatti del quotidiano diventano i grandi maestri di vita. Io direi che ogni pagina del Vangelo, ogni pagina della scrittura può trovare un'attualizzazione nel nostro quotidiano, nei modi più diversi. Quindi se lei trova un parallelismo, un aggancio tra il brano che abbiamo ascoltato oggi e quello che le è successo ieri, penso questo sia lecito, cioè nessuno gli toglie questo. Io direi però di non scartare la duplice lezione che le viene, cioè certo da un lato c'è la bellissima testimonianza di questo giovane del Bangladesh che nella sua povertà le ha dato quello che aveva e è venuto in suo soccorso senza aver timore di lei. E questo ci ricorda che a volte sono proprio i piccoli, quelli che sono più poveri, quelli che sono ai margini, i primi ad essere più in sintonia con il regno dei cieli, quello che ci diceva proprio il finale del racconto di oggi, quindi siamo in perfetta sintonia. Ma c'è un'altra lezione che le viene, ed è la lezione di coloro che uscendo da chiesa, forse abituati ad un contesto in cui non ci si fida più di nessuno, non gli hanno dato nessuna, non gli hanno dato nemmeno una moneta. Non disprezzi nemmeno questo atteggiamento, ma lo accolga come un insegnamento ad essere più prudente, nel senso che la prossima volta si guarderà bene dal lasciare che il lampeggiare della riserva sulla sua macchina non sia un invito a fermarsi al benzinaio. Anche nella fede, nel cammino di fede è così. Spesse volte la riserva ci fa capire che la nostra fede comincia un po' a traballare ed è il momento in cui è bene fermarsi davanti a Dio e fare il pieno della sua grazia, fare il pieno della sua parola, senza come dire, sfidarlo nell'andare oltre. In altre parole, tutti e due i volti dell'esperienza che le è successo offrono un insegnamento, sia da parte di chi le ha dato qualcosa, sia da parte di chi non le ha dato niente. Il Signore, penso, si sia servito di entrambi. Grazie Tommaso per questa sua bella esperienza di vita che ha il sapore del fioretto, dell'aneddoto, però carico di significato. Grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, sono Maria da Milano. Sì. Volevo ritornare al testo, e Gesù lo amò. Sì. Questa parola a me ha sempre dato una cosa, una domanda che tutti i giorni io la faccio a me stessa, lo amò. Cioè, lui è amore, perciò lui viene giù e ci insegna l'amore. Il cristianesimo, secondo me, non è stato molto capito, perché il cristiano deve far tutto, invece non è far tutto, ma essere. E non è nemmeno la parrocchia, la preghiera e Bangladesh e tutte queste cose, perché sono tutte queste cose, sono un dono che fa lui a chi ha il cuore aperto. Questa è la mia domanda, la ringrazio e l'ascolto per radio. Buonasera. Sì, signora Maria, la ringrazio di questo suo intervento. Il Signore manifesta il suo amore per sostenere la nostra sequela a partire dai fatti quotidiani ed è ovvio che questo amore poi si incarna nelle cose piccoli o grandi della nostra vita. La cosa significativa è che prima di chiamare, di affidare una chiamata all'uomo che è sempre, come dice lei, una chiamata che tocca l'essere, non il fare. Il Signore prima di chiamarci a un fare ci chiama a una relazione con Lui. Se il nostro fare non è una risposta alla relazione con Lui, il nostro fare è vuoto. Potrà anche essere positivo, potrà anche costruire qualcosa, ma se non è una risposta ad un amore che ci precede, più grande, non regge, cioè di fronte ad alcune situazioni di vita, solo un amore grande regge, altrimenti non si regge, ma solo la forza dell'amore spinge. Per fare un esempio molto concreto, pensiamo al caso dei genitori, soprattutto delle mamme. Chi dà la forza a una mamma di alzarsi 10 volte nella notte quando suo figlio è ammalato, dar sempre al figlio quando questo diventa grande la possibilità di ricominciare anche se gliene combina di tutti i colori, questa dedizione che è fatta di sacrificio, di notti insonni, di pensieri, di preoccupazioni che solo i genitori conoscono, chi, qual è la forza che sta dietro a tutto questo? La forza che sta dietro a tutto questo è l'amore. E solo quando uno lo ha sperimentato dentro di sé riesce a donarlo. E da dove spunta questo amore che è tipico della maternità e della paternità? Spunta dalla vocazione che il Signore ha dato ad ogni madre, ad ogni padre. Quando viene donato un figlio ad una mamma, ad un papà, e quel figlio è il segno di una vocazione che Dio ha dato a quei genitori. Li ritiene in grado di portare avanti quel grande mistero e quindi riversa in loro quell'amore. È solo questo amore che Dio ha riversato nei loro cuori che permette poi di reggere tutti i sacrifici che la vita pone loro davanti. E quindi l'amò prima di chiedergli una cosa così esigente ha tutto questo significato. solo se noi riusciamo a cogliere questo sguardo d'amore di Dio, questa forza che viene solo da Lui, riusciamo ad agire di conseguenza, altrimenti prima o poi mettiamo uno stop. I discepoli hanno bisogno di cogliere l'amore di Dio sulla croce per riuscire poi ad amare l'umanità a cui saranno mandati a 360 gradi, altrimenti alla prima persecuzione sarebbero scappati con la coda tra le gambe, e invece no, ogni volta sanno rimettersi in gioco. Perché? Perché c'è un amore più grande che li ha preceduti. Un amore che ha saputo andare oltre le loro infedeltà, oltre le loro povertà. Mi permetta, signora Maria, di fare un piccolo approfondimento su questo testo, perché ci sono delle traduzioni che traducono male. Ci sono alcune traduzioni che in questo versetto traducono così: Gesù allora, fissando lo sguardo su di lui, lo baciò e gli disse. Gesù non bacia nessuno. Il verbo utilizzato non è né fileo né catafileo, che stanno per, che potrebbero avere il significato di baciare, ma viene utilizzato il verbo agapao. Sapete che il verbo agapao è il verbo che esprime l'amore gratuito per eccellenza. In genere nella gradualità dell'amore, del verbo dell'amore, l'ha bene spiegato anche Benedetto XVI nella sua lettera, nei diversi gradi, stadi dell'amore, quello espresso da questo verbo greco, dal verbo agapao, è l'amore gratuito, l'amore che non aspetta nulla in cambio, l'amore che è in grado di perdonare. Ed è proprio questo l'atteggiamento con cui Gesù si rivolge all'uomo che lo interpella, infondendo in lui la forza per rispondere alla sua vocazione. Grazie anche a lei per questa sua domanda. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Pronto, buonasera, io mi chiamo Dina, chiamo da Udine. Mi dica. Le volevo chiedere, per ricchezze si intendono solo cose materiali o forse ci sono delle ricchezze che una persona può avere e che in qualche modo può cercare di trasmettere ad altri? Che ne so, un esempio che mi viene in mente è insegnare a perdonare, quando c'è questa capacità nel cuore della persona che riesce ad amare anche le persone che gli hanno fatto del male. E volevo sapere appunto se per ricchezza si può intendere anche questo. Grazie signora per questo suo intervento, che ci permette di allargare un attimo l'orizzonte, lo spettro della nostra riflessione. Prima dicevo che il termine utilizzato dall'Evangelista Marco per indicare la condizione di quell'uomo che ferma Gesù è che quest'uomo aveva molte proprietà. L'espressione utilizzata in greco è ktemata polla. Le ktemata, dicevo, sono le proprietà private, ciò che uno può dire di suo possesso. Ovvio che questo può intendere alcuni aspetti più materiali, quindi prima facevo l'esempio delle case, dei campi, nel primo secolo delle donne, degli schiavi, ma può anche indicare, come bene sottolinea la nostra ascoltatrice, può indicare anche delle qualità personali che sono legate a ciascuno di noi. Uno può avere il dono dell'arte, può saper dipingere, un altro può avere il dono della musica, quindi può avere particolari doti in questo campo. Uno può avere il dono di una particolare sensibilità che si traduce in una capacità di ascoltare gli altri. Un altro può avere il dono di un titolo di studio grazie alla sua intelligenza. Uno può acquisire, non so, delle conoscenze di carattere scientifico, tecnico o di vario tipo. Bene, tutti questi elementi fanno parte del bagaglio che il Signore dà a ciascuno di noi. Ed è ovvio che di tutti questi elementi il Signore ci ricorda che non dobbiamo sentirle solo delle proprietà personali, dei possessi personali. sono tutti spazi di condivisione. Ogni proprietà è un pane che va spezzato con gli altri. Nel momento in cui questo pane non viene spezzato, in qualche modo quella proprietà, quel bene si rovina. Pensiamo ad esempio, non so, alle conoscenze scientifiche che acquisisce un medico. Un medico, questa sua proprietà è un pane che va spezzato sapendo mettersi in ascolto del malato, sapendolo rispettare, sapendo comprendere le ansie che questo prova per andargli incontro, per sapergli dire le cose nel modo giusto e al momento giusto. E così un insegnante è chiaro che ha un dono particolare, che non significa solo trasmettere nozioni agli studenti, che non significa solo mettere delle valutazioni su un registro, ma significa saper guardare negli occhi quegli studenti, avere lo stesso sguardo di Gesù, quel emblepo che sa andare un pochino oltre la facciata, cogliendo magari dietro alcuni atteggiamenti che sembrano dire distrazione, che sembrano dire disinteresse, quell'elemento di disagio, quel grido nascosto che forse vuole comunicare altro. Ecco, solo in questo modo noi riusciamo a trasformare le proprietà in un pane spezzato per gli altri, e questo vale anche per noi preti. Ogni sacerdote ha un ministero significa un servizio, e quindi ciò che noi abbiamo ricevuto per vocazione è un pane che va spezzato, e quindi il compito del sacerdote è la dimensione dell'ascolto, del rispetto, dell'accompagnamento, del far spazio agli altri, e quante volte anche noi ci dimentichiamo presi dal fare. Grazie Dina, che attraverso questa sua domanda ci ha permesso proprio di allargare un attimino lo spettro della nostra riflessione sulle ricchezze e di vedere come possono essere proprio applicate al nostro quotidiano. Sì. Mi dicono dalla regia che questa era l'ultima telefonata, quindi ringrazio le sei persone che hanno arricchito con le loro domande la nostra riflessione: Silvio, Angelo, Antonio, Tommaso e le due signore Maria e Dina, che hanno arricchito con le loro domande quanto ci siamo detti. L'augurio che faccio a me e a ciascuno di voi alle porte della Quaresima ormai imminente è proprio quella di sperimentare l'amore di Dio, l'amore di un Dio che si rivela a noi sotto il segno della spogliazione massima sulla croce. Ecco, che il Signore ci accompagni in questo cammino. Noi ci diamo appuntamento al mese prossimo, e il mese prossimo, ecco, la trasmissione non si terrà il terzo lunedì, ma si terrà il terzo giovedì del mese. Quindi per una volta vi chiedo un piccolo cambiamento di data, il 22 marzo. Ringrazio ciascuno di voi e a tutti voi la benedizione di Dio che sempre ci accompagna e vive dentro di noi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.